strangle this is to thee, O Vicconi, clomi ta riga, e serse ti trogi misiga, risingerà le silube. Tambur da pascalino tra, e le chitarre forse ne, fra se su di mos obstine, mem chasso, mem refa, mem chasso, mem Oh!